America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Milano a Wall Street, anzi a 75 Wall Street, dove il sindaco Letizia Moratti è venuta per spiegare la città di Milano, Milano strategica, Milano polo d'attrazione di investimenti internazionali. Abbiamo con noi a Radio 24 il sindaco. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi. Ma veniamo intanto ai fatti del giorno, fatti alquanto importanti. Il presidente Barack Obama, intanto sentiamo che cosa ha detto ieri a Buffalo, New York, dove è venuto per portare una ventata di ottimismo. Today we are headed in the right direction. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta, lo ripete il presidente americano, raccoglie applausi, ma dobbiamo chiederci se è vero, se è poi vero che l'America si stia davvero muovendo nella giusta direzione. È vero che gli Stati Uniti stanno uscendo da una delle peggiori recessioni della storia, come ha detto il presidente americano, ci sono stati nuovi occupati, ma ci sono anche notizie che non sono poi così rassicuranti. Alcune vengono da Boston, dove un raid dell'FBI ha preso alcuni sospetti di essere complici del terrorista Faisal Shahad, che aveva cercato di piazzare la bomba a Times Square. Dunque ci si rende conto in America che esistono delle cellule ormai radicate nel territorio, notizia davvero preoccupante. Quando Barack Obama ha lasciato Buffalo e poi è venuto qua in città per un fundraising, ma anche per un incontro con gli ispettori di polizia che seguono dalle centrali la città, la seguono con degli schermi. Abbiamo visto alcune decine, forse centinaia di questi poliziotti che seguono costantemente, minuto per minuto, i movimenti nei punti nevralgici della città. Il messaggio di Obama è stato appunto quello di tenere gli occhi aperti, di giocare d'anticipo su possibili rischi, ma è chiaro che anche questo è un problema, è una preoccupazione, e dunque c'è da chiedersi se ci si sta davvero muovendo nella giusta direzione. C'è da chiedersi se ci sta muovendo nella giusta direzione in Afghanistan, dove ieri grosso modo il numero di americani morti ha superato il numero di 1000 soldati, 1000 giovani. Karzai, che ancora in America, è andato a fare una visita al cimitero. Un'altra notizia che così ci preoccupa riguarda il settore bancario. Scandali bancari, è sceso in campo anche il procuratore di New York Andrew Cuomo, ha messo sotto inchiesta 8 grandi banche e ha esteso l'inchiesta alle banche europee, tra queste Deutsche Bank, Credit Suisse, Credit Agricole, le altre Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup e Merrill Lynch, che oggi è con Bank of America, e ovviamente UBS. Che cosa vuole provare Andrew Cuomo? Che queste banche hanno in qualche modo convinto le agenzie per la valutazione del credito a dare dei voti troppo positivi, troppo buoni, ben al di là di quello che meritavano, agli strumenti finanziari che avevano impacchettato, strumenti finanziari rappresentativi di mutui bancari. Ci si è sempre chiesti se era una questione di incompetenza, perché alcuni di questi strumenti sono falliti pochi mesi dopo che le agenzie per la valutazione del credito avevano dato magari un triplo A. Ecco, adesso emerge l'idea della virgolette combutta. Sempre in materia di agenzie per la valutazione del credito, il Senato ieri ha approvato un emendamento nel contesto della riforma finanziaria che ha varato l'idea di una nuova agenzia di sorveglianza per le agenzie per la valutazione del credito. Ne avevamo bisogno. Ma lasciamo per un momento l'America con questo interrogativo, se davvero ci si sta muovendo complessivamente nella giusta direzione. Torniamo a Milano, torniamo al sindaco che è qui con noi. Le chiediamo come si fa ad attirare gli investitori americani in Italia, a Milano in particolare. Beh, innanzitutto Milano è un'area strategica perché è al centro del corridoio Berlino-Palermo e Lisbona-Kiev. È una città che a non più di 2 ore di distanza può contare su 650 milioni di consumatori, quindi credo che questo sia già un punto importante per capire la strategicità di Milano. È una città che è la prima al mondo come polo fieristico. Per quanto riguarda la ricerca, siamo la seconda città europea dopo Londra, abbiamo tanti istituti di ricerca con 30.000 persone che lavorano, e la cosa credo molto interessante è che noi abbiamo il 40% dei brevetti italiani che sono realizzati a Milano, e siamo in termini di numero di brevetti pari a Boston. Ecco, avete fatto anche degli esperimenti di investimento, per esempio in incubazioni, lanci di nuove imprese per giovani, che quindi possono fare da catalizzatore poi per attirare capitali stranieri che trovano un tessuto di tecnologia, investimento e visione, diciamo, giovane che guarda in avanti? Sì, stiamo investendo molto sulla green economy e sui giovani. Sui giovani abbiamo investito oltre 10 milioni di euro in 5 incubatori nel settore biotecnologie, agroindustria, ICT, design e moda. Abbiamo incubato oggi 73 aziende che impiegano, negli ultimi 3 anni, questi sono i risultati, che impiegano più di 370 persone, hanno un fatturato di 37 milioni di euro. Ecco, le banche, gli investitori, i venture capital americani cercano il grande investimento che poi muove economie di scala e anche economie di un certo livello. Qual è la prospettiva di investimento della città di Milano? Milano ha essenzialmente due grandi prospettive di investimento. Una è data dal nuovo piano di governo del territorio, che prevede oltre 1 milione di metri quadrati di aree in trasformazione. Questo crea grandi opportunità. Uno dei più grandi investitori in real estate, che è il gruppo Heinz, ha scelto Milano come punto più importante, investimento più importante fuori dagli Stati Uniti. Nella prospettiva Expo abbiamo 12 miliardi di euro di investimenti in infrastrutture, più investimenti in nuove tecnologie, in real estate, quindi in questo campo, quindi ci sono grandi opportunità per i privati. Stiamo realizzando 2 nuove linee metropolitane, ne stiamo ampliando 3, e parte di queste naturalmente possono essere fatte con fondi privati. Ecco, trasporti, com'è la situazione a Malpensa? A noi, grazie a un provvedimento del governo che ha liberalizzato gli slot attraverso la rinegoziazione degli accordi bilaterali tra stati, abbiamo superato le destinazioni che avevamo quando Alitalia era il nostro primo vettore, quindi avevamo allora 166 destinazioni, a oggi sono 169 destinazioni tra italiane, europee ed extraeuropee. Ecco, il tasso di inquinamento della città, ho visto una volta che ero di passaggio a Milano le biciclette, così ci sono delle tasse d'ingresso al centro, ci sono altri progetti su cui state lavorando? Abbiamo messo in atto circa 30 misure per combattere l'inquinamento. La prima misura è stata quella di incrementare il trasporto pubblico, quindi abbiamo 8 milioni in più di passeggeri nel nostro trasporto pubblico, siamo passati da 30 milioni a 38 milioni. C'è un progetto per auto elettriche, ho sentito che se ne parlava prima, può anticiparci qualche cosa? Entro il 2010 installeremo a Milano 200 centraline per la ricarica di auto elettriche, abbiamo fatto accordi con già alcune case automobilistiche, quindi essendo un accordo che abbiamo fatto anche con Brescia, noi potremo utilizzare auto elettriche da Milano a Brescia e viceversa. Bene, ringraziamo il sindaco e a presto. A presto, grazie. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. 2 settimane fa vi avevo parlato del nuovo album del gruppo The National, band cresciuta nei locali newyorkesi negli ultimi anni. Finalmente l'album è uscito, titolo dell'album High Violet, ed ecco la canzone del giorno che secondo me è una delle più belle tratta da questo nuovo album, Blood Buzz Ohio. Stand up straight at the foot of your love, I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love, I lift my shirt up. I was married to Ohio in a swarm of bees.